TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Chiusa da poco l'autostrada nel tratto fra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia. Si sono scontrati almeno 3 tir. Poche le notizie fino a questo momento. Chiuso in entrata anche lo svincolo di Duino. Trieste Gorizia apre pista del nuovo numero europeo armonizzato, necessario per l'attivazione di cure mediche non urgenti. Da oggi pomeriggio infatti Asugi manda in pensione il vecchio numero verde e lo sostituisce col 116-117 che da aprile dovrebbe coprire tutta la regione. Udine inaugura l'anno accademico della sua università con una relazione del rettore Angelo Montanari e una Lectio Magistralis di Andrea Riccardi, storico e fondatore della comunità di Sant'Egidio. Lectio sulla pace. Per Carnevale dal 12 al 17 febbraio chi non risiede nel comune di Muggia dovrà dotarsi di un QR code per l'accesso al centro storico. Per i non residenti nel comune verrà anche istituito l'ingresso a pagamento. Una storia collettiva è quella di Giulio Regeni. Fra poco saranno 10 anni dalla sua uccisione in Egitto e pochi giorni fa avrebbe compiuto 38 anni. A Fiumicello il popolo giallo è il protagonista della mostra. Giulio continua a fare cose allestite in una sala espositiva del comune. La convivenza e il dialogo per superare le barriere internazionali sono le linee guida del Collegio del Mondo Unito di Duino, realtà formativa che accoglie studenti da 80 diverse nazioni. Nella nostra trasmissione televisiva del mattino, Buongiorno Regione, le testimonianze di chi fa dell'inclusione il proprio stile di vita. Positivo il bilancio di Tarvisio, a sipario calato sulla Coppa del Mondo di sci alpino femminile, la visibilità mediatica, l'adeguatezza del tracciato e l'assenza di problemi organizzativi hanno riconquistato la fiducia della Federazione Internazionale dello Sci dopo le incomprensioni di 15 anni fa. Basket, Apo Udine perde sul parquet di casa contro Reggio Emilia. I friulani non sono riusciti a capitalizzare i vantaggi raggiunti in partita, come quello di 13 punti nel secondo tempo. Un finale sul filo di lana ha consentito il sorpasso degli ospiti. Apo resta fuori dalla zona playoff, ma un margine di 6 punti da quella della salvezza. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Dunque, pochi minuti prima di mezzogiorno sull'autostrada A4 in direzione Venezia, tra Duino e Monfalcone Est si è verificato uno scontro fra 3 tir che ha causato anche la perdita del carico di almeno uno dei mezzi coinvolti. Al momento non è noto se ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste, Gorizia e Monfalcone e anche i sanitari del 118. È chiuso al momento al traffico il tratto fra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia. Chiuso in entrata anche lo svincolo di Duino. Nel corso del giornale radio, se ne avremo, vi daremo aggiornamenti, altrimenti vi rimandiamo al telegiornale delle 14. Dalle ore 15 di oggi il numero verde di Asugi, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, utilizzato finora per l'attivazione di cure mediche non urgenti, va in pensione. Al posto dell'800-614-302 sarà operativo il 116-117, numero europeo armonizzato che da aprile sarà utilizzato anche dal resto della regione, attualmente già attivo in molti stati europei e in alcune regioni italiane. La sala storica, che un tempo era il 118 di Trieste in via del Farneto, sta cambiando pelle per la seconda volta in meno di 10 anni. Prima successe nel 2017, quando nacque il numero verde 800-614-302 per le non urgenze, perché le urgenze passarono alla SORES con il 112 regionale. E ora nasce ufficialmente, questo pomeriggio alle 15, il 116-117, il cosiddetto NEA, numero europeo armonizzato, già presente in 4-5 regioni italiane. Ora solo per Asugi, quindi Trieste e Gorizia, da aprile a livello regionale. La sala raddoppierà di dimensione, arriveranno 30 nuovi operatori amministrativi. Per la città di Trieste e Gorizia, siamo con il responsabile Alberto Peratoner, di fatto la cittadinanza è già abituata. Dal 2017 ogni anno avete circa 180.000 chiamate. Le persone chiamano e che cosa trovano? Ricordiamo che è un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. trovano una risposta sempre presente e qualificata di un infermiere che indirizzerà l'utente, paziente, verso la richiesta di sanità non urgente. Quindi nelle fasce e nelle giornate di guardia medica, prefestivo e festivo e fascia notturna, ci sarà un indirizzamento della chiamata al medico di continuità assistenziale ex guardia medica. Nelle altre giornate, nelle altre fasce orarie, le possibilità sono l'indirizzamento alla neocostituita casa della comunità, tutta una parte informativa legata a non reperimento, difficoltà al reperimento del proprio medico di medicina generale, necessità legate all'attivazione di distretti, di strutture di sanità territoriale, informazioni anche sulla parte veterinaria, sulla parte ambientale e genericamente quindi una risposta di tipo informativa laddove si tratta di situazioni non urgenti ed una risposta di tipo operativo nell'indirizzamento dell'utente cittadino verso la struttura più adeguata. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 48esimo anno di attività dell'Ateneo Friulano è stato inaugurato con una cerimonia a cui hanno portato i saluti anche il sindaco De Toni, il presidente della regione Fedriga, relazione del rettore Angelo Montanari, il Lectio Magistralis affidata ad Andrea Riccardi, già ministro per la cooperazione internazionale e fondatore della comunità di Sant'Egidio. Tema della sua lezione, la pace è possibile? La didattica integrata come risposta alla concorrenza delle università telematiche, uno dei concetti chiave della relazione del rettore di Udine Andrea Montanari alla sua prima inaugurazione dell'anno accademico. Didattica integrata significa non fermarsi alle tradizionali lezioni frontali in presenza, ma aggiungere modalità digitali. Altro tema, l'internazionalizzazione, con un focus su America Latina, alcuni paesi africani ed Estremo Oriente. Allo stesso tempo, l'Università di Udine vuole essere vicina al territorio a mezzo secolo dal terremoto del Friuli, dalle cui macerie è nata. Montanari intende rafforzare la presenza a Pordenone, Gorizia e Gemona e la rete tra gli Atenei del Triveneto. Altra questione è quella del ricambio generazionale. Udine perderà oltre un terzo del suo personale nei prossimi 10 anni. Per Montanari c'è bisogno di un piano nazionale perché le università da sole non ce la possono fare. All'inaugurazione si è parlato anche del semestre filtro di medicina. La presidente del Consiglio degli Studenti, Elisabetta Moretti, ha parlato di una riforma fallimentare e ha criticato il Ministero per non aver dimostrato capacità d'ascolto. Molto attesa la Lectio Magistralis di Andrea Riccardi, ex ministro e fondatore della comunità di Sant'Egidio. Nella sua allocuzione Riccardi si è chiesto se la pace sia ancora possibile in un'epoca in cui pare un'utopia e nella quale si lavora con la forza, ha detto. Alla cerimonia hanno preso la parola il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha evidenziato il ruolo della regione nel garantire il diritto allo studio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, il coordinamento delle camere penali del Friuli Venezia Giulia, illustra le motivazioni del sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Sentiamo la referente regionale. Olga Fabris, referente regionale comitato per il sì dell'Unione Camere Penali. Quali sono in sintesi le principali ragioni del sì alla separazione delle carriere dei magistrati? Votiamo sì per tutelare le libertà e i diritti dei cittadini e attuare finalmente il giusto processo davanti a un giudice terzo e imparziale. Anche l'istituzione dei due CSM con componenti sorteggiati servirà a rafforzare la credibilità e l'autorevolezza della magistratura, i cui avanzamenti di carriera dipenderanno non più da logiche correntizie, bensì dalle competenze e dal merito. La magistratura ne uscirà quindi rafforzata, ne uscirà rafforzata l'autorevolezza e la credibilità. Non è un voto sì o un no di destra o di sinistra, non votiamo sì o no al governo Meloni, non votiamo sì o no per indebolire la magistratura, viceversa per rafforzarla. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sul fronte opposto il comitato per il no di Pordenone, che si è presentato poco fa alla stampa presso la sede della CGIL di via San Valentino. Sentiamone le ragioni. Paolo Michelutti, comitato per il no Pordenone, che comprende ANPI, CGIL, Democrazia Costituzionale e Libera, ci sintetizza le principali ragioni del no. Allora, è evidente che quando si tocca la Costituzione ci sono dei problemi non solo di forma ma anche di sostanza. La questione della divisione delle carriere dei giudici era già venuta con la Cartabia, insomma la separazione è un'ulteriore forzatura. La creazione di due consigli superiori della magistratura per controllare i giudici e non ci sembra una cosa che i padri costituenti avevano considerato e non abbiamo nessuna garanzia che questo aumenti la libertà dei giudici, anzi e soprattutto l'alta corte, che dovrebbe essere un organo completamente nuovo, ha dei grossi dubbi. Dal nostro punto di vista è un organo che serve solo a controllare l'operato di alcuni giudici. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il porto di Trieste è la principale leva di sviluppo della città e del sistema economico regionale. È su questo tema che il gruppo PD al Consiglio regionale e il Forum Lavoro Sviluppo Economico dei DEM di Trieste organizzano un confronto al quale parteciperà il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, oltre a politici e ad addetti ai lavori, all'NH Hotel di Trieste in Corso Cavour alle 17.30. Muggia, capitale del carnevale per l'edizione 2026, la manifestazione si svolgerà dal 12 al 18 febbraio, gran finale martedì 17. Oggi il Comune ha presentato il piano predisposto per garantire la sicurezza degli eventi. L'accesso a pagamento riguarda i non residenti che dovranno munirsi di un QR code al costo di 10 euro, valido anche come QR familiare. Il numero massimo di QR code a pagamento rilasciabili è fissato in 3.000 al giorno. I residenti a Muggia invece non dovranno pagare né dotarsi di QR code, sarà sufficiente esibire un documento d'identità. Il territorio sarà suddiviso in due aree, la zona blu, che comprende il centro storico con varchi di accesso controllati, e la zona azzurra, immediatamente limitrofa, con punti di verifica dedicati. I controlli saranno attivi dalle ore 20 e riguarderanno anche chi è già all'interno delle zone interessate. Sono previste numerose esenzioni dal pagamento, ma con obbligo di QR code per lavoratori, proprietari di seconde case, volontari, ospiti di strutture ricettive e altre categorie. Restano invece completamente libere e gratuite la sfilata della domenica e le manifestazioni tradizionali del carnevale. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative, mentre le false dichiarazioni avranno rilievo penale. Tutte le informazioni saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del comune. Il sindaco Paolo Polidori. Il divertimento dipende dalla sicurezza, quindi il fatto di mettere la sicurezza come indispensabile strategia per avere il divertimento sicuramente ci sta. È un'azione ovviamente coraggiosa, sono delle scelte coraggiose che però derivano anche dall'esortazione al comitato tecnico di sicurezza presieduto da prefettura e questura, e per cui è una strategia che abbiamo messo in campo e che pensiamo, anzi siamo sicuri, che andrà a mitigare ovviamente, come si diceva, i rischi, anche perché il costo stesso dovrebbe scremare quella parte di facinorosi che vengono soltanto per danneggiare, per creare atti delinquenziali. Muggia, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. I militari del reparto operativo aeronavale di Trieste hanno scoperto 5 imbarcazioni, tutte provenienti dal litorale veneto e con proprietari residenti in provincia di Venezia e Verona, i quali durante l'ultima regata velica internazionale, la Barcolana, avevano organizzato viaggi a pagamento per la gente che voleva assistere allo spettacolare evento. Le imbarcazioni fermate però non avevano le relative autorizzazioni sulla licenza di navigazione, configurando, precisano le Fiamme Gialle, un utilizzo commerciale delle unità in difformità rispetto alla destinazione d'uso consentita. Più di 36.000 euro d'importo, l'importo delle sanzioni elevate ai proprietari dei natanti, a bordo dei quali sono stati riscontrati anche lavoratori in nero, oltre al fatto che alcuni soggetti che si proponevano come skipper risultavano privi dei prescritti titoli professionali. Il blitz è solamente il primo. Per quest'anno potrebbe manifestarsi, nel corso della prossima regata, una ulteriore stretta sui viaggi per i clienti imbarcati per assistere alla manifestazione velica. Sono state 964 le attività chiuse o sospese nel 2025 in Friuli Venezia Giulia su proposta dei NAS a causa di gravi carenze igieniche. E quanto emerge dal bilancio annuale diffuso dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS dei Carabinieri di Udine, competente per tutta la regione. Sotto la lente di ingrandimento sono finite soprattutto le gravi carenze igienico-sanitarie e la vendita di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi. Nell'ultimo anno sono stati sottratti al consumo 533 kg di alimenti, tra cui carni, prodotti ittici e latticini, poiché privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o giudicati pericolosi per la salute. I militari hanno inflitto 491 sanzioni amministrative per un valore totale che sfiora sfiora i 600.000 euro, segnalando 279 esercenti alle autorità competenti. Situazione meteorologica, cielo sereno su costa e pianura, da sereno a variabile in montagna. Ecco le temperature alle 11, a Trieste 4 gradi e mezzo con vento da est-nord-est bora, a 40 km orari di media con raffiche che hanno raggiunto i 68 km orari. Gorizia, Udine e Pordenone 5 gradi, Piancavallo 3 gradi, Forni di Sopra 1 grado, Sappada meno 2, Tarvisio meno 3, Monte Zoncolan meno 2 gradi e mezzo, Monte Lussari meno 9,5, a Grado e a Lignano 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno con bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Per domani cielo sereno, gelate notturne in pianura, soffierà bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa. L'atmosfera sarà secca. Un elefante azzurro felice che in un gesto atletico sta in equilibrio su una palla dello stesso colore è l'opera che Guess Net, lo street artist anche conosciuto alle cronache come il Bansky triestino, ha lasciato in occasione del Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Non a caso l'opera, una installazione apparsa all'alba nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. L'artista, che non si è mai rivelato e comunica solo attraverso un profilo Facebook, ha postato un messaggio per far sapere che l'opera è stata pensata e realizzata insieme ad una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Verona, Caterina Parmigiani. Guess Net ha anche spiegato che l'installazione vuole essere un omaggio alle persone che soffrono del buio interiore e che affrontano quindi le giornate critiche come il famigerato Blue Monday con grande difficoltà. In uno scenario geopolitico preoccupante, in cui le relazioni internazionali e diplomatiche sono molto tese, c'è una realtà in cui i giovani tra i 17 e i 18 anni, provenienti da 80 nazioni, imparano a convivere e dialogare. Nella nostra trasmissione televisiva del mattino, Buongiorno Regione, abbiamo raccolto le voci di studentesse e studenti del Collegio del Mondo Unito di Duino. Un laboratorio di pace e convivenza dove si impara ad ascoltare l'altro è il Collegio del Mondo Unito di Duino, dove oltre alla matematica, le lingue, la storia e la scienza si insegna anche la politica globale e si fa tanto volontariato. Valentina Bach, segretaria generale. I nostri studenti hanno tra i 16 e i 18 anni e sono in quell'età della loro vita in cui sono già abbastanza grandi e indipendenti, ma nello stesso tempo hanno ancora un carattere molto malleabile, flessibile, e imparano a identificarsi con ragazzi di tutto il mondo da noi. Stare qui è una buona opportunità per crescere, ma spesso vorrei essere lì, far parte di quello che succede. Forse non potrei aiutare in nessun modo, ma io ci penso. Ci sono voluti 9 mesi per riuscire a partire grazie all'intervento di diversi attori, tra cui UNICEF e Croce Rossa Internazionale. Oggi i miei genitori hanno internet e possono accedervi facilmente, quindi posso parlare con loro in qualsiasi momento. Ma prima non era possibile. Pensare a loro tutto il tempo è davvero difficile e sapere che stanno passando momenti duri là è davvero pesante da affrontare. Nel Collegio del Mondo Unito le principesse convivono con i rifugiati e ragazze e ragazzi provenienti da contesti molto diversi. Ero innamorato di una principessa spagnola e lei stava per andare in un collegio del Mondo Unito. Ho pensato, è impossibile entrare in un posto dove studia una principessa, ma mia mamma mi ha detto che se sogno in grande posso farcela. Così ci ho provato davvero, con tutto me stesso. Ho fatto amicizie che penso dureranno per tutta la mia vita, ho imparato cose di estremo valore riguardo al mondo, ho sentito storie, ho provato emozioni che in qualunque altro contesto non penso sia possibile provare. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tra pochi giorni ricorrono i 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo. Fu rapito il 25 gennaio del 2016. Il suo corpo, orrendamente martoriato, fu ritrovato il 3 febbraio ai bordi di un'autostrada e nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Mentre il processo istruito a Roma è sospeso in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale, il cosiddetto popolo giallo e questa storia collettiva sono i coprotagonisti della morte mostra che si è aperta ieri nel municipio di Fiumicello Villa Vicentina. Si intitola Giulio continua a fare cose ed è stata curata da mamma e papà Regeni con Marina Tuni. Nel paese in cui tutto parla di lui, Giulio continua a fare cose. Lo fa nel modo in cui ci ha costretti a diventare più coraggiosi, più consapevoli, più presenti. Nel modo in cui ci ha insegnato che la verità non è un'idea astratta, ma una responsabilità. A dirlo è il suo popolo giallo, di quel giallo Giulio, diventato un simbolo. Marina Tuni, co-curatrice della mostra. Il popolo giallo è nato da una ferita. È nato dalla domanda perché? Perché è capitato questo? Perché una persona come Giulio Regeni, che era un ricercatore, da lì, da questa ferita, poi è nato questo movimento. 10 anni dopo, da quel movimento, è nata una mostra collettiva curata dai genitori di Giulio, Claudio e Paola Defendi, assieme a Marina Tuni, e allestita nella sala espositiva del comune di Fiumicello Villa Vicentina. C'è la lettera 35 gialla con le parole per Giulio, ci sono i gomitoli di lana a rappresentare i flash mob e a dire che tutti i nodi vengono al pettine. Ci sono i ritratti di Giulio firmati da alcuni noti disegnatori e i pensieri dei più piccoli per lui. È più che altro un cammino, il cammino che abbiamo fatto tutti noi, appunto Popolo Giallo, in questi 10 anni di vicinanza, di sostegno, di scorta affettiva, non solo mediatica, nei confronti della famiglia. E in questa mostra ognuno di noi ha tirato fuori tutto quello che aveva, il Paolo e Claudio stessi, perché molte delle cose che vedete qui nella mostra sono a casa di Paolo e Claudio, e sono delle cose personali che però loro hanno voluto condividere con tutti quanti noi. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio e aperta per l'intera giornata il 25 gennaio, quando il giovane ricercatore sarà ricordato con diversi appuntamenti, fra i quali la proiezione in anteprima nazionale del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo. È un atto politico, ma laddove politico non ha il significato, l'accezione comune che gli diamo, ma è umanità, verità. Fiumicello Villa Vicentina, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine in calendario la celebrazione del trentennale della scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell'università, percorso che in 30 anni di attività ha formato oltre 200 professionisti dei beni culturali nel settore della tutela, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale, operanti in Italia e all'estero, in università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, gallerie d'arte, musei, case d'aste e archivi. L'evento, a cui presenzieranno i vertici dell'università friulane della scuola, includerà anche interventi di ex alunni. Appuntamento a Palazzo di Toppo-Wassermann dalle 16. Tarvisio ha salutato il Circo Bianco che ha occupato il fine settimana appena trascorso con la 2 giorni di Coppa del Mondo femminile. Grande l'esposizione mediatica, grande la soddisfazione espressa dalla Federazione Internazionale dello Sci, che già pensa di riproporre la località della Valcanale per la Coppa del 2028. Col prossimo servizio proviamo a dare la pagella a questa manifestazione sportiva. Tempo di bilanci per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile che si sono svolte a Tarvisio nel fine settimana. Complessivamente la manifestazione è andata bene sotto tutti i profili. Bisognava riconquistare la fiducia della Federazione Internazionale dello Sci dopo le incomprensioni di 15 anni fa. E così è stato. Dal lato agonistico, la pista di Prampero si è dimostrata ancora una volta un tracciato adatto ad una tappa di Coppa del Mondo. Nadia Fanchini, commentatore tecnico RAI dello sci alpino. Sicuramente è una discesa che è di Super G più adatta alle ragazze scorrevoli, quindi era da essere molto fluidi, poco tecnica, però molto bella. La macchina organizzativa ha funzionato al meglio, dimostrando una capacità lavorativa secondo le linee guida della FIS, grazie soprattutto all'apporto di oltre 200 volontari provenienti in gran parte dagli sci club del Friuli Venezia Giulia. Jacopo Mestroni, presidente del comitato organizzatore Tarvisio 2026. Il mondo dello sci regionale ha risposto alla grande in questo, li abbiamo coinvolti su diversi aspetti, da quelli logistici a quelli in pista. Il Friuli è riuscito a fare sistema in questo caso e la risposta è stata molto positiva. Un investimento da 2.200.000 euro coperto interamente con fondi regionali che ha dato grande visibilità mediatica al territorio, sostituendosi egregiamente alle tradizionali tappe di Cortina d'Ampezzo sospese in questa stagione per l'impegno olimpico di febbraio. Stefano Longo, presidente della Fondazione Cortina. Fare un confronto anche con quello che accade a Cortina d'Ampezzo nelle gare, varie gare di Coppa del Mondo che abbiamo organizzato negli anni, ed è questa organizzazione è assolutamente soddisfacente, tanto che io personalmente ritengo che Tarvisio debba essere una sede di gare di Coppa del Mondo nello sci alpino anche negli anni futuri. Infine il pubblico, numeroso ed appassionato, ha sfidato umidità e nebbia disegnando una cornice colorata e variopinta alle gare, pronto per nuovi appuntamenti del Circo Bianco a Tarvisio. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo al calcio. La Triestina ha deciso di esonerare l'allenatore Attilio Tesser e di richiamare in panchina Giuseppe Marino, che aveva cominciato la stagione prima di essere sostituito a metà del girone di andata dal mister di Montebelluna ed è ancora sotto contratto. La svolta è giunta dopo l'ennesima sconfitta degli alabardati sabato scorso sul campo dell'Ospitaletto, la quarta nelle ultime quattro partite, e dopo che la sessione di calciomercato di gennaio ha portato alla cessione di due dei giocatori più rappresentativi, cioè Ioniz e Chernigoy, non controbilanciati da alcun arrivo di volti nuovi. E la classifica intanto continua impietosamente a mostrare la Triestina ancora meno 2, lontanissima dalla quota play-out. Il basket in A2 al Palacarnera ieri sera. APU Old Wild West Udine è stata battuta da Una Hotels Reggiana per 90-85. La cronaca della partita. Un passo indietro, non tanto nel risultato, una sconfitta che ci sta, quanto nella gestione dei ritmi di gioco. Udine perde in casa contro Reggio Emilia, squadra da playoff, trovatasi invischiata in zona retrocessione, e lo fa nonostante l'esordio di Zorkis, che fa vedere poco, ma sarà utile soprattutto in difesa. Sul campo vale la legge dell'ex. Troy Copen, brevemente a Udine nel 2018, esegue una masterclass fin da inizio partita. L'Apo ha la solita fiammata da Libegovic e scappa sul più 13 con la tripla di Daros su assist di Criston, limitato però dai falli. Sopra di 8 all'intervallo con un altro canestro del capitano, l'Apu si spegne di botto. Copen e Berford propiziano un parziale da 11-3 in 2 minuti e mezzo che ribalta il match. Saranno 28 i punti segnati dai reggiani nel terzo periodo, con canestri di talento individuale più che di cattiva difesa che piovono uno dietro l'altro, ma con Criston e Spencer i bianconeri si riavvicinano sul meno 2 con 10 minuti da giocare. Thor mostra i muscoli in avvio di ultima ripresa e si arriva a un finale punto a punto. La tripla con fallo di Alibegovic a 3 minuti dalla sirena sembra ribaltare la partita è inerzia, ma dopo il canestro e fallo di Mekovulu, altro blackout. La difesa concede 2 giochi da 3 punti a Brown e Copain in 2 possessi consecutivi per il controsorpasso. Ad ammutolire il Carnera ci pensa Berford dall'angolo, 85-90 per Reggio, con i friulani di nuovo fuori dalla zona playoff, ma con un margine di 6 punti su quella salvezza, obiettivo stagionale. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Proponiamo ora qualche segnalazione fra i numerosi appuntamenti del programma di oggi del Trieste Film Festival, tra cui la proiezione del film sloveno Telo di Petra Seliskar sulla storia ventennale di una donna colpita da rare malattie autoimmuni al Teatro Miela. Alle 14, altro evento, la proiezione dello sloveno Punto Debole. Alle 18, a seguire La Grotta dell'Orso di Stergios Dinopoulos, avventura romantica tra due amiche d'infanzia, alle 20, sempre al Miela. In calendario anche la presentazione del libro La Gatta alla fine del mondo, dello scrittore croato Robert Perisic, in dialogo con il giornalista Rai Walter Schkerka, l'antico caffè San Marco. Alle 18. La violinista Anna Tifu e il pianista Giuseppe Andaloro saranno protagonisti del concerto Immagini Sonore, nuovo appuntamento della 94esima stagione della Società dei Concerti di Trieste, al Teatro Verdi alle 20:30. Il pubblico è invitato a partecipare anche all'incontro preconcerto con i due musicisti, che si terrà al ridotto del teatro alle 19:15 a ingresso libero. Prima di chiudere, giusto un'occhiata alle notizie dall'autostrada, che resta chiusa nel tratto fra Sistiana e Monfalcone Est per l'incidente di cui vi abbiamo detto. Uscita obbligatoria a Sistiana, chiuse le entrate di Sistiana e Duino in direzione di Venezia. L'autostrada è chiusa nel tratto Sistiana Monfalcone Est in direzione Venezia. Sono le 12:58 minuti e 48 secondi. Grazie a Mauro Cumin e a Carlo Morello per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.